Fretzit, fricket, fra. Da. Drago, con me. Stricket, fruccat, fra. Don't know why there's no sun upon the sky. Stormy weather. Since my girl and I ain't together. Keeps raining on the town. Ma è estate, stormy weather, però. Ma è lunedì. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago, aiuto, non vedo niente lo oggi. Lo so, Drago, tutto il giorno, anche prima di venire qui all'asilo. Sì. Rompevi le balle che non vedi niente, non vedi. Stai a casa, no? Ma scusa, ho fatto la fluorangiografia, sono fotofobico, capisci che è un casino in questo. Ma dai! Ha ragione, ma siamo mica a essere benefiere, Drago, hai sbagliato orario. Ho sbagliato a venire all'asilo, anche se sono accecato, no? Potevo stare. Peccato che non ti abbiano fatto un bel intervento alle corde vocali, così stavi zitto e andavamo via. Stavo lisci, zitto, quando facevo fare la radio, scusa. Ma è appunto. In tronco e rimanevo io da solo. Dici la puntata che del lunedì, tac tac, due canzoni e via. Ma tu basterebbe avere un problema alle corde vocali per essere licenziato, sarebbero così crudeli. Ma quindi guarda che sul contratto c'è, secondo te c'è scritto che se diventi muto loro ti mantengono a vita, no, come bet for life, no, win insomma, for comunque non sono eternity. Muto, quindi quindi sei cieco, sei anche un po' sordo. Sì, però la cecità è momentanea. La sordità invece. La sordità è lieve, ma c'è, ci sarà per sempre. Ma cosa c'entra questo? Questo qua doveva essere un intervento dall'asilo. Come al solito si è rivelato un intervento dal gerontocomio, anticamera dell'obitorio. Bentornati a Chiedo Obitorio. Un saluto da Drago, zombie. Anche perché l'obitorio, Drago, bisogna prenotarsi all'obitorio. Cioè, se non hai amici, ma come all'obitorio, mica ti trovano posto così all'obitorio. Ma se sei morto, come fai a avere amici? Se ma sei non morto. So, però, per esempio, per il cimitero è così, no? C'è il racket delle tombe. Lo so. Se vuoi seppellire il vecchio nonno, c'è tutta una camorra con permessi, non permessi. La bombofone prima dava a guardare da luoghi, capito? Un inferno. Bentornati a Chiedo l'Oculo. Chiedo l'Oculo. Se cambi l'accento passi subito per un maniaco. A proposito di maniaci. E io sono stremato, capito? Vabbè, ma anch'io sono stremato, capito? Ah, vabbè. Lunedì, Drago, lunedì mi scende tutto quello che mi è salito nel weekend. Vabbè, non indaghiamo che cosa sale, che cosa scende nel tuo sangue alla Mick Jagger. Sangue, Drago, se io faccio le analisi del sangue, se mai dovessi farle, sono come Vasco Rossi, Ho fatto le analisi del sangue qualche tempo fa e è venuto fuori che sono perfette. Le due analisi del fegato. Ma dentro del fegato di un bambino. Vabbè, ma Vasco non sta benissimo, capo. Insomma, non so se lui che dice che sta bene sia ancora una cosa tanto recente di un bambino e sia una cosa ancora valida. Quindi se tu hai le stesse analisi di Vasco, allora sono tutti fatti tuoi, cioè mi preoccuperei un po', Ma scusa, io non le faccio le analisi, no? Se solo le facessi, è ipotetico. Ah, ho capito. Perché quando sento che, non so, i polmoni stanno per collassare perché ho fumato troppo, cosa fai? Ti lavi i denti, ti sciacqui con un colluttorio molto forte, mangi una caramella balsamica, quelle che fanno bruciare gli occhi, e improvvisamente è tutto a posto, ovvio, sei puro, è così, no? Per forza, così si chiama medicina cappiana, consiste nel non andare mai dal medico e nel curare i sintomi immediati con automedicazioni, con mezzi preferibilmente a portata di mano lì pronti, le caramelline balsamiche, ma anche con delle medicine, insomma. Dipende, io tengo sempre una confezione di Delta Cortene, 5 mg. Appena ho mal di schiena, invece di fare gli esercizi, prendo una, due, tre pastiglie, tre, quattro di Delta Cortene, mi passa. Ma per forza che ti passa, il cortisone. Appunto, mi passa, Drago, mi passa, no? L'importante è che passi, poi per un po' non ci pensi. Ma non è che ti cura, cioè lì ti fa solo una specie di doping, no? Ti dopa tutto. Ti dopa tutto. Ho capito, la medicina cappiana è così. Vabbè. Adesso che è lunedì, io sono stremato, capito? Ho bisogno di tirarmi un po' su. Non oso pensare cosa prescriva la medicina cappiana per tirarsi caffè, su. Caffè, cafeina, caffè. Taurina, t'hai capito? Ah. Bibite energetiche, energy drink, bibite. Immaginavo qualcosa più la Mick Jagger. Ma come? Ah, Mick, tipo una canzone, ma no, tipo così, no? No, ma che canzone, dai, K, Mick Jagger. Ma la sai questa? Com'è? So. E quindi niente, mi dice. La giornata cominciamo. Delta Cortene, via. Chiedo asilo. E ora, bambini, ricreiamo. passione. Scusa, bambino. Se riesci a tirare il gancio di qua, tiro di lì. Ma perché deve passare facendo? Sotto l'orecchio, perché sennò si vede, no? L'apparecchio di... Ecco così. Aia, però mi fa male. Allora, bambino aia. Alberto, ma cosa stai facendo lì? Allora, cosa traffichi? Ma perché mi interrompete sempre voi? Vabbè, ma sei lì col... Cos'è curioso, un apparecchio dei denti? Cos'è quella roba con gli elastici in faccia? Ma no, che elastici in faccia? Questo è un apparecchio, adesso vi spiego. Allora, qui ho dovuto abbandonare la chirurgia plastica, perché la lista d'attesa è lunghissima. Ah, per i bulli. Tagliando i bulli. Ah, sì. Capito, perché la vecchia sventola, doppio mento, quelle robe lì, no, tutti i difetti che hai. No, l'addome, l'addome. L'addome, va bene. Comunque, qui c'è da aspettare troppo per queste operazioni, no? Vabbè. Sì, meno quindi male. Nel frattempo cosa faccio? Cioè, mi offro come vittima sacrificata? Vabbè, no? Ma sarà mica una tragedia. Alla quattro fine siete amici, no? Quattro ragazzetti che ti danno i buffetti. Quattro ragazzetti. Tanto l'altro giorno i ragazzetti erano tre. Tre bulli. Beh, di meno, io ho detto quattro. E mi hanno preso in giro per le gambe a X e per il doppio mento. Cioè, tu pensa. Vabbè. Io ho il doppio mento. Ho capito. Sì. Hanno visto, però insomma sono solo parole. Tu non dovresti prendertela. No. Come parole? Sono parole, ma scusa, sì, d'accordo, però un significato ce l'avranno. Perché se lui si arrabbia così, vuol dire che lo pungono sul vivo. Ma che pungono sul vivo? Per questo non sono mica parole, perché loro mi danno sempre. Questi due mi dicono: uè, bambino Alberto, se tu ammetti di avere le gambe X e il doppio mento, ti lasciamo in pace. Ma tu ammettilo, guardati. No, io che ammetto? Io dico: no, io le gambe X non ce l'ho, il doppio mento non ce l'ho neanche, ce l'ha tua sorella. Quindi? Quindi botte. Riprendono le botte. Ma scusa, tu fai così, tu digli che invece hai le gambe a X, che hai il doppiamento, che hai anche un addome spropositato per la e le orecchie a sventola, no, così almeno. Ma perché devo dire delle menzogne? Ma così non naso, anche il naso storto. Vabbè, insomma, dai. Allora, solo che è permaloso, perché devo parlare male di me? Forse faceva meglio la chirurgia plastica, così almeno non l'avremmo neanche più riconosciuto, capito? Bambino, beh, chissà dove ci sono passi via. Comunque, visto che la chirurgia plastica è a latere, allora, qui ho cominciato a fare da me. Il fai da te. Plastica senza chirurgia. Ma cosa quindi vuol dire? Quindi intanto l'apparecchio geniale che mi avete visto addosso, che è di questo bambino, è un ingegnere praticamente, è un prodigio. Ma vabbè. Non so com'è, non se ne sono accorti. Questo fa delle cose con le mani che... E che cosa ha fatto? Questo crocchio è in via di sperimentazione, no? E che cosa serve? Cos'è? Questo è per il doppiamento, è un sistema di tiranti, invisibili, Ma no, invisibili. Usa dei prodotti, questo usa dei materiali che non so dove pescarli. Sì, vabbè, per il doppiamento. È l'apparecchio dei denti questo smesso dal bambino ingegnere. Quello lì... E si è fatto pure pagare. Allora, ingegnere, bambino. Sì. Poi. Invece poi, per le gambe invece, X, per le gambe X lì faccio tutto in casa sotto a scartabellare, no? Sì. Il manuale del trapper. Il manuale del trapper. Ho capito, ho trovato la soluzione. Mi stecco le gambe. No, ma mi stecco le gambe. Le gambe sane. Ma certo, sono un po' storte, ma non sono. Ma sul manuale del trapper dicono di steccarsi la gamba nel caso in cui si spezzi. Camminando uno si spezza la gamba. Vicino a un ospedale. Ma cosa c'entra l'ospedale? Ma poi lì si spezza. Ma qua se è da correggere il difetto, funziona, no? Ma e sì. Io ho deciso, perché io ho fatto la variazione. Nel trapper usavo una stecca per gamba. Sì. Io quattro stecche. No, vabbè. Cioè due per gamba, no? Ma lascia perdere allora, tutte queste così, cose. Poi comprimo la gamba. Ma lascia stare. E se per caso fosse X, si corregge. Ma non è che c'è una roba così grave, insomma, c'è un po' il ginocchio valgo, insomma, lascia perdere la stecca. Ma no, niente, lascia perdere. Sono parole difficili, però. È difficile, ma dire burro intanto del ginocchio valgo. Bambino Alberto, c'hai le gambe X, no, c'ho il ginocchio valgo, allora mi do schiaffone. Quindi cosa serve? Vabbè, ma tu accettali, no? Ovviamente ce l'hai tu e c'è chi t'ha creato. È giù una legnata. Allora. Ma sai una cosa? Secondo me fanno bene a prenderlo a botte. Sì. Anche se avessi le gambe dritte. E ora, bambini, e tutti a casa. Bang! Crash! Squits! Ghouls! Whack! Ghoul! No, vabbè. Cos'è? Questi sono i fumetti alla radio. Ancora non lo sapete, ve lo diciamo adesso. Ci sono due fumetti di Chiedo Asilo che si possono vedere su YouTube, sul Facebook di Chiedo Asilo e anche sulle pagine del sito di Radio 24, proprio radio24.it. Sono quelle dello spread, il fumetto dello spread e il fumetto dell'asino di Buridano. Sei preparato? Oh, è un sacco di visualizzazioni, ma con i vostri click. Noi faremo un sacco di cosa? Non è che fai soldi con i click? No. E cosa però fai? Potresti fare un sacco di ditecelo voi a radio24.com. No, non è così. Com'è? Chiedo Asilo è radio24.it. Vabbè, punto it, neanche com. Nemmeno ho com. Ho sbagliato tutto. Fumetti alla radio, fumetti alla radio.